Con Francesco Fodarella, direttore dell'Ariano Folk Festival Winter Edition ad Ariano Irpino dal 27 al 29 dicembre. Francesco, ben trovato. Buongiorno e grazie per la sensibilità che avete nei nostri confronti. Complimenti per la trasmissione. Ci racconti un po'? Sì, l'Ariano Folk Festival è giunto ormai alla sua terza edizione invernale e quest'anno ci accingiamo ad organizzare la 24esima estiva. E questo richiamo invernale ormai è diventato un appuntamento quasi doveroso, perché un po' tutti i nostri fan lo aspettano e cerchiamo di inoltrare il nostro pubblico all'evento estivo, che diciamo che è quello un po' più maturo e pregno di contenuti, senza nulla togliere a quello invernale, che comunque ha le sue caratteristiche ben calde, con le sue aree collaterali molteplici, che spazia un po' in tutte le aperture culturali, dal cinema alla fotografia, alla presentazione di libri, alle degustazioni e chiaramente all'aspetto musicale. Sì. Allora, facendo un passo indietro, come era nato il Folk Festival? Beh, è nato quasi per caso durante una vacanza di piacere a Praga, dove si è costituita questa associazione e abbiamo voluto iniziare da subito ad organizzare più che altro una festa popolare, che non aveva le solite caratteristiche di una festa di paese, diciamo così. E gradualmente poi nel corso dei primi anni da subito ha avuto la sua specificità relativa alla proposta musicale ed è diventato un festival. E poi nel corso degli anni ci siamo adoperati nella ricerca musicale, cercando di non rientrare in quello che è il panorama commerciale, con una serie di viaggi, di partecipazioni a festival, alla fine ha avuto le sembianze, cioè è diventato un festival a tutti gli effetti, con una programmazione che spazia nell'ambito della world music in particolare. L'edizione invernale si è resa necessaria date le tante proposte? Diciamo che l'edizione invernale riusciamo a farla anche per un contributo europeo che la regione ci riconosce. Okay. E quindi abbiamo questa possibilità di rilanciare il marzo anche l'inverno, ed è una cosa molto molto positiva, perché abbiamo la possibilità appunto di ospitare ulteriori band e far conoscere e divulgare ancora meglio il nostro marchio, perché credo che ogni festival debba avere la propria identità e rilanciare più che la line-up, che è molto importante, ma è importante far conoscere il marchio sul territorio, facendo appunto una ricerca e impostando una programmazione originale che possa contraddistinguere il marchio anche in altri contesti, diciamo. Sì. Oh, in questi tre giorni quante saranno le proposte musicali? 10 band compresi DJ che si alterneranno sullo scenario dal 27 al 29 dicembre. Iniziamo il 27 con Gabriele Giuliano con il suo collettivo di musiche tradizionali arrangiate a modo proprio, un concerto molto interessante. Continuiamo con Giufà, questa band siciliana. Poi il giorno successivo abbiamo Sweet Life Society e poi una band dalla Spagna, Itaca Band. Insomma, un programma molto molto ampio che si può consultare tranquillamente sul nostro web arianofolkfestival.it. Benissimo, allora ricordiamo l'Ariano Folk Festival Winter Edition ad Ariano Irpino dal 27 al 29 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al direttore Francesco Fodarella. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e buone cose, arrivederci.